Mi scusi, prego. Mimì! Pasquale! Catarina! Alfredo, Alfredo! Catarina! A che mi sti parola ma... Mettici lo zucchero! Mettici... Non t'ho scordato, co fazzoletto è mio cicciuccio. Non t'ho scordato. Catari, Catari, che viene a dire, sto parlando. Scusa, che scusa? Ma non lo faccio più. Va bene, soprassediamo. Eccomi qua.